Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di Città Intelligenti, un libro che è arrivato alla seconda edizione e adesso, come vedremo, se ne annuncia un'altra, una nuova edizione, un libro che parla di sistematica per amministratori lungimiranti e cittadini esigenti. Buonasera ad Alberto Cavicchiolo. Buonasera. Cavicchiolo è responsabile di Art Valley, la società che ha edito questo libro e che appunto si interessa anche di modernità, possiamo dire così, Cavicchiolo? Sicuramente è diciamo una fondazione, uno think tank che ormai procede da 15 anni con iniziative sulla cresta dell'onda. Città Intelligenti è una delle nostre specialità. Ecco, tra i promotori di questa iniziativa è l'ingegner Raffaele Villa. Buonasera, ingegner Villa. Buonasera a tutti. Ingegner Villa, che ha appunto coordinato, ha promosso questo libro che raccoglie una serie di contributi molto vasti di tutti coloro che si stanno interessando del tema della modernità appunto nelle città. Ci sono testimonianze dei sindaci, da Chiamparino di Torino per esempio, ci sono testimonianze di grandi chairman di aziende come di Umberto Paolucci, di Microsoft, di altri esponenti politici, di imprenditori come di Enrico Loccioni, presidente del gruppo Loccioni. Ecco, testimonianze che accompagnano appunto un lungo itinerario attraverso quello che si può fare, quello che si sta facendo e quello che si può fare per rendere più moderne, più abitabili, più confortevoli, più sostenibili le città. Ecco, qual è il filo conduttore appunto di questa ricerca, Alberto Cavicchiolo? Che noi siamo, come Made in Italy, uno dei punti più avanzati della ricerca e soprattutto dell'implementazione di progetti e servizi per le città intelligenti. Lo dimostra una dei, diciamo, dei pionieri del settore, che è appunto la società UMPI di Cattolica, che è ormai anche un laboratorio internazionale. Noi ci dobbiamo confrontare con quello che a Cattolica, cioè in un piccolo centro, è stato diventato poi un progetto che ormai è planetario in 4 continenti, ricordiamo appunto gli impianti in Arabia Saudita, nelle Città Sante, piuttosto che in Brasile, in Francia, in Inghilterra. È un grande, straordinario caso di intelligence italiana delle città intelligenti, che non viene da un grande conglomerato come possono essere i conglomerati tedeschi o americani, ma viene proprio dal Made in Italy. Ecco, quali sono i punti su cui agisce questa dimensione, questa realtà, ingegner Villa? Si parla di illuminazione, si parla di traffico, si parla di arredo urbano, si parla di potenzialità appunto di sfruttare la realtà cittadina per aiutare i cittadini a vivere meglio. Quali sono i punti di forza di questa attenzione appunto alla modernità nelle città? Ecco, sì, innanzitutto sì, abbiamo cercato di tenere i cervelli in Italia, di non farli scappare, anzi di farli fruttare al meglio. Il concetto base e il principio su cui si fonda poi un progetto sostenibile è appunto l'utilizzo di infrastrutture che già esistono per creare nuovi servizi, all'insegna della sostenibilità. Quindi quello che abbiamo fatto, e qui vengo al merito, pensando alla pubblica illuminazione, è di sfruttare questo grande patrimonio, appunto i pali della luce, le infrastrutture elettriche, sfruttando quelle che sono le onde convogliate, quindi il trasferimento dei dati sulla stessa linea di alimentazione, per appunto rivalutare reti che sono già esistenti per caricarle di servizi e per fare due cose. Prima di tutto risparmiare, quindi la luce. E lei pensi che ci sono ben 10 milioni di lampioni su tutto il territorio nazionale e che consumano parecchi gigawattora. Facendo una proiezione potremmo risparmiare un qualcosa come circa 500 milioni di euro all'anno di energia elettrica da reinvestire, soldi che si possono reinvestire in servizi, e quindi sfruttare appunto la capillarità dei lampioni, che li abbiamo trasformati in cosiddetti lampioni intelligenti, per erogare servizi, quindi servizi che sono poi la ricetta base per le smart city di cui si sente tanto parlare, e quindi servizi legati alla mobilità sostenibile, all'informazione, alla connettività e quindi tutto quello che riguarda anche il controllo del territorio, quindi abbinare a una serie di sensoristiche che è in grado di rilevare magari smottamenti, frane, allagamenti, oppure condizioni di sicurezza per cui automezzi che trasportano materiali molto pericolosi siano ben tracciati, ben identificabili e quindi avere tutte le possibilità di precauzionali del caso. Ecco, ingegner Villa, indubbiamente le tecnologie ci sono, l'Italia, come abbiamo detto, è anche all'avanguardia in questo settore, proprio sotto il profilo tecnologico, però forse la volontà politica di mettere in pratica appunto queste innovazioni c'è all'interno del sistema italiano realisticamente? Ma guardi, realisticamente la strada è obbligata, nel senso che dobbiamo sposare politiche green, green grid si sente parlare, perché diversamente con le condizioni economiche che ci sono, quindi l'impossibilità di avere risorse fresche disponibili, non si può andare avanti. Quindi bisogna cercare progetti autosostenibili, una sorta di, diciamo, di modello di project financing che recupera risorse finanziarie da quelle che sono gli sprechi, perché le posso garantire, abbiamo visto che mediamente gli sprechi sono nell'ordine del 30%, quindi si possono riutilizzare questi sprechi per reinvestire appunto in servizi a valore aggiunto. È chiaro che sicuramente bisognerà cercare di, a livello politico, di discriminare quelle che sono le politiche, le innovazioni sostenibili da quelle che sono dei costi, e quindi vengo al dunque, magari allentare un po' la morsa sul patto di stabilità parlando dei comuni e quindi cercare di differenziare quello che è un investimento che va nella direzione del green piuttosto di altre spese che non c'entrano nulla con progetti autosostenibili. Certamente, perché gli investimenti andrebbero fatti subito e le ricadute poi si hanno nel medio lungo termine. Ecco, con Alberto Cavicchiolo vorrei chiedere appunto come si parlava di una nuova edizione di questo libro, di nuove prospettive anche internazionali, che cosa avete in progetto? Beh, diciamo, questo è stato il primo libro in Italia sulle città intelligenti, siamo alla quarta edizione, è stato tradotto in inglese, adesso stiamo valutando altre traduzioni. La nuova versione riguarda il confronto tra Oriente e Occidente sulle città intelligenti, ossia siamo andati a visitare i cantieri giapponesi, Boulder in Colorado, l'altro ieri eravamo a Mazda City ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare un confronto tra le esperienze straordinarie che ci sono appunto in Medio Oriente, per esempio, che è anche un cantiere, ma soprattutto è anche una forza finanziaria, e quei know-how invece che possono essere portati specificamente dall'Italia. Io dico, insistiamo sul Made in Italy. Made in Italy delle tecnologie non ha niente da invidiare, non è niente di meno di quello della moda o dell'alimentazione. Noi abbiamo società straordinarie. Posso anche già annunciare adesso che la società UMPI con me sarà invitata a partecipare al prossimo master che la società Engineering sta organizzando a Ferentino. Sarà un master straordinario sulle città intelligenti che partirà tra qualche mese. Avrà tra i curatori Vincenzo Tartufferi, capo della divisione Energia, ed è una delle punte di eccellenza per dimostrare che la formazione che noi possiamo dare per le città intelligenti è primaria a livello europeo. Ecco, ingegner Villa, quindi le prospettive sono anche di una presenza all'estero, non dimenticando di quello che si può fare in Italia. Si può andare su queste due dimensioni con qualche speranza di successo, ingegner Villa? Sì, certo. Guardi, noi abbiamo cercato di ampliare il ventaglio delle soluzioni proprio per raccogliere più consensi e prendendo anche un po' lo spirito dell'estero. Non prendo l'estero come esempio sicuramente, ma prendo questo spirito di innovazione, questa magari capacità di andare oltre quelle che sono le abitudini, perché magari forse noi italiani siamo più vincolati da quella che è l'abitudine a fare le cose in un certo modo, ma sicuramente l'innovazione tecnologica, la possibilità di creare nuovi scenari rivolti appunto alle politiche del green, ma alle politiche dei servizi, perché ricordo a tutti che Smart City si sente tanto parlare, ma adesso cominciano a venire avanti anche politiche e finanziamenti dall'Europa, perché sulle Smart City abbiamo avuto circa 2 miliardi e passa di euro nel 2012 di finanziamenti dall'Europa, ma adesso comincia ad arrivare il concetto vero e proprio che è Smart City and Community, quindi comincia ad arrivare la persona, non è solo la tecnologia, ma appunto il servizio e il benessere, diciamo, in più che cerca di portare la tecnologia con la propria innovazione, quindi il classico benessere interno lordo. mondo, quindi non pensiamo solo al PIL ma al BIL. Ecco, e grazie, e quindi benessere interno lordo, le istruzioni per l'uso, per conseguire questo benessere all'interno delle città, nel libro Le città intelligenti, scrivendo un manuale di sitimatica per amministratori lungimiranti e cittadini esigenti. Ringrazio l'ingegner Raffaele Villa e dottor Alberto Cavicchiolo di essere stati con noi questa sera. Vi ricordo che il libro, appunto, Le città intelligenti, edito da Art Valley, ha 300 pagine e costa 42 euro. Grazie. Dopo aver parlato di città intelligenti, di tecnologia, riserviamo l'ultimo breve spazio di questa nostra rubrica a un libro che parla di macroeconomia, ma soprattutto di politica monetaria. Che cosa succede se crolla l'Europa? È un libro scritto da Geert Makker, che è uno storico e giornalista olandese attento ai problemi europei. Un libro che descrive con molta efficacia e con un po' di pessimismo, possiamo dire, il problema, appunto, dell'unità monetaria europea, con tutti i pericoli che abbiamo visto negli ultimi tempi, con tutti i rischi che la comunità europea ha dovuto affrontare e con tutte le politiche controverse che pur ha dovuto mettere in atto per tentare, appunto, di salvare una costruzione come quella dell'euro, che comunque ha riservato anche grandi possibilità di crescita, grandi possibilità di integrazione. Ecco, questo giornalista Geert Makker, storico e giornalista, mette in luce tutti questi problemi e li mette in luce con una speranza di fondo, quella che si possa comunque andare avanti, si possa comunque risolvere il problema europeo affrontandolo in senso costruttivo, cercando, appunto, che ognuno e soprattutto i paesi più forti possano dare qualcosa anche ai paesi più deboli, ma i paesi più deboli facciano la loro parte per affrontare e superare, appunto, le tensioni che ci sono state all'interno dell'euro. L'euro che resta una grande realtà, che resta una grande prospettiva, che resta in fondo un grande successo economico-politico, pur con le difficoltà che in questo momento, in questi ultimi anni, ha dovuto e deve ancora affrontare. E quindi, guardando sia gli aspetti economici generali sia gli aspetti quotidiani, questo libro aiuta a capire meglio i problemi e aiuta anche ad avere la giusta prospettiva per risolverli. Vi ricordo il titolo, Che cosa succede se crolla l'Europa, di Geert Makker, storico e giornalista olandese, edito da Castelvecchi, costa 10 euro, sono poco più di 140 pagine. Grazie a chi ci ha seguito. Vi ricordo il primo libro di cui abbiamo parlato, Le città intelligenti, poi abbiamo parlato dell'euro. Ringrazio Peter Bescapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, buon fine sabato e buona domenica.